2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 7 novembre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024, molto semplice, 2024@radio24.it. Anche questa puntata, come del resto tutte le nostre puntate, sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. E come ormai migliaia di ascoltatori sanno, è possibile anche scaricare il podcast, che è una modalità molto più semplice ma soprattutto più comoda per avere la nostra puntata, il file MP3 della nostra puntata settimana dopo settimana. La notizia più importante di questi ultimi giorni riguarda la banda larga italiana, che potremmo dire può attendere. Gli 800 milioni del piano del governo per il superamento del digital divide, che da tempo attendono di essere sbloccati dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, sono stati sostanzialmente congelati in attesa della fine della crisi, e quindi chissà quando verranno sbloccati. Perché, ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, che è stato il primo a dare questo annuncio, il governo ha cambiato l'ordine delle priorità. Naturalmente le opinioni su questo tema sono le più diverse, ma forse in questo caso c'è una netta maggioranza convinta che la diffusione della banda larga sia un contributo importante per il futuro del nostro paese, ma di tutti i paesi, in particolar modo di quelli più evoluti, ed è anche un modo per riavvicinare i paesi meno evoluti a quelli occidentali e in generale sviluppati del G8 o degli altri G. Dicevamo, è un contributo importante per il futuro del paese, ma anche per i cittadini, per la pubblica amministrazione, per le imprese, soprattutto per quelle piccole e medie. Questa settimana, alla fine di questa settimana, ieri, Gabriele Galateri, che è responsabile all'interno di Confindustria per lo sviluppo della banda larga, ha ricordato che ogni euro investito in banda larga ne produce almeno 2 di aumento di attività economica e di prodotto interno lordo. Addirittura l'OCSE aveva previsto in alcuni paesi un ritorno 4 volte superiore, quindi insomma in tutto il mondo c'è una certa correlazione, anche una certezza di correlazione tra sviluppo di sistemi per portare internet in tutto il paese e sviluppo economico. Ma sicuramente gli ascoltatori più affezionati di 2024 saranno i primi ad essersi sorpresi di questo congelamento. La scorsa settimana abbiamo parlato del Droid, qua cambiamo argomento, Droid di Motorola, uno smartphone molto atteso dal mercato, che viene venduto negli Stati Uniti da Verizon con sistema operativo Android di Google. Verizon punta molto su questo prodotto perché da tempo alla ricerca di una soluzione anti-iPhone, che viene invece venduto da AT&T. Sapete che negli Stati Uniti c'è sempre stato e c'è ancora un forte legame tra il prodotto e il servizio, quindi tra il prodotto e l'operatore che vende poi il servizio di telefonia mobile e anche di internet in mobilità. L'aggiornamento di questa settimana riguarda l'Italia, perché questo smartphone arriverà anche nel nostro paese, ma si chiamerà in un altro modo, si chiamerà Milestone. Peccato per il nome, perché Droid era un nome molto bello, molto azzeccato, forse potrebbe essere questo veramente una pietra miliare, un milestone nella storia di Motorola e, come molti sostengono o sperano, il ritorno di questo grande marchio tra i big della telefonia mobile. Motorola non ha mai abbandonato il mercato della telefonia mobile, ma sapete, lo abbiamo detto più volte, 2024, gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili. Su Android c'è un'altra notizia che arriva da Sony Ericsson, che si aggiunge alla lunga lista di produttori che metteranno sul mercato telefoni con questo sistema operativo. Anche il nuovo X10 di Sony Ericsson avrà il software sviluppato da Google. C'è un'altra novità che riguarda invece eBay, uno dei siti più visitati naturalmente anche da molti dei nostri ascoltatori. Da martedì prossimo, il 10 novembre, sul più grande sito di aste online del mondo ci sarà la possibilità di pubblicare anche un annuncio gratuito. E questa è sicuramente una novità molto interessante, probabilmente, anzi sicuramente spinta da molti siti concorrenti che permettono la pubblicazione di annunci gratuiti. eBay ha reagito acquistando qualche tempo fa alcuni di questi siti internet, ma certo non può acquistare tutti i siti internet che sono sul mercato, e ora ha introdotto questa novità appunto degli annunci gratuiti. Non ci saranno naturalmente tutti i servizi e nemmeno la possibilità di partecipare all'asta o tutti gli altri appunto servizi che esistono nella parte a pagamento di eBay, che ha la resa famosa nel mondo, che ha determinato il successo di questo modello, ma è di sicuro una novità molto apprezzata dal mercato di internet. A proposito di cose gratuite, slitta di qualche mese, ma non si sa bene di quanti mesi, il piano di Rupert Murdoch, che vorrebbe fare pagare, quindi dal tutto gratuito, vorrebbe fare pagare i contenuti dei propri quotidiani che ancora oggi sono visibili appunto senza essere pagati, quindi gratis su internet. Visto l'entusiasmo con cui il proprietario della News Corporation aveva annunciato questa novità, molti nel settore erano in attesa, erano curiosi di vedere poi messo in pratica questo progetto. Quindi adesso c'è stato uno slittamento. Come molti dei più attenti osservatori vedono, le cose non sono semplici, tutti ne parlano, cioè tutti parlano di questo passaggio auspicato da soprattutto dagli operatori del settore, in modo particolare delle news, ma di molti contenuti, dal tutto gratis al modello a pagamento basato su micropagamenti. Molti si interrogano su come fare a rinascere un'industria, in modo particolare quella della carta, che sta crollando soprattutto negli Stati Uniti. I numeri sono piuttosto preoccupanti negli Stati Uniti, ma anche in Europa non scherziamo. Ma dicevo, le cose non sono semplici, finora nessuno ha trovato una soluzione e soprattutto nessuno ha ancora deciso di fare la prima mossa. Molti speravano e attendevano che il primo a fare la mossa fosse Murdoch, ma per il momento tutto è rimandato. Quindi per ora gran parte dei contenuti, le notizie in particolare, sono pagate dalla pubblicità, e naturalmente dove il mercato pubblicitario è più sviluppato c'è anche una maggiore possibilità di fare nascere nuovi servizi, di tentare nuove strade. Non è il caso purtroppo dell'Italia, anche se internet è forse l'unico mezzo dove c'è qualche segnale positivo in un anno in cui carta, TV, anche la radio, non forse come gli altri media, ma anche la radio, insomma, non se la passano granché bene. Abbiamo fatto il punto questa settimana con Fabiano Lazzarini, che è direttore generale dello IAB, Interactive Advertising Bureau, l'associazione che raggruppa i principali operatori italiani della pubblicità online. Quello che sta avvenendo è che il nostro mercato sta comunque crescendo in un anno in cui, come abbiamo detto, purtroppo gli altri media stanno perdendo grosse quote di mercato. Ecco, noi cresceremo di un più 10,5%, questa è la nostra stima che diamo per il 2009, che è un numero ottimo, abbiamo detto, per il 2009, ma che non è sufficiente. Fino a qualche anno fa crescevamo con tassi di crescita del 30, del 40%, quindi va bene in questo anno orribile il 10%, ma è un po' pochino per un mercato giovane come quello dell'online, e soprattutto se paragoniamo questo dato a quello di mercati stranieri, dove le crescite sono state ben diverse. Se allarghiamo il quadro e guardiamo il mondo della pubblicità in generale, quanto pesa l'online in un paese dove sappiamo che la TV ha un peso un po' troppo esagerato, forse confrontandola con il resto d'Europa, almeno l'Europa? Ecco, lei ha toccato un tasto dolente. Sfortunatamente in Italia la percentuale dedicata ai media digitali è solamente del 7%. Ciò significa che ogni investitore, fatto 100 la sua spesa pubblicitaria, dedica all'online solo il 7% di essa, che è veramente poco. Si possono già fare alcune iniziative interessanti con budget piccoli, come sappiamo, online, però è necessario far crescere, soprattutto quando parliamo di multinazionali, quindi che poi paragonano i risultati dell'online con quelli di altri mezzi come la televisione o la radio. Ecco, è necessario alzare questo 7%, magari noi speriamo in un futuro allinearci ad altre country europee che arrivano fino al 20 o anche di più per cento. Tipo Gran Bretagna? Esattamente, esatto, dove recentemente l'investimento su internet ha superato addirittura quello che della televisione. Dicevamo che una delle caratteristiche di questo mondo è l'abbassamento della soglia per anche un professionista, una piccola azienda, per entrare nel mondo della pubblicità. Questo poi è vero sul mercato? Cioè è vero che i piccoli che cominciano ad affacciarsi ad internet magari timidamente hanno capito che possono fare pubblicità, o questo mondo, che sta poi tra l'altro diventando anche sempre più complesso, rimane per addetti ai lavori o comunque per grandi aziende, per grandi agenzie? Allora, diciamo che ci sono due, il mondo a cui ci riferiamo è sempre lo stesso, quindi quello della pubblicità e comunicazione digitale, però è come se si dividesse in due grandi anime. Allora, le grandi aziende chiaramente devono avere un tipo di approccio più vicino a quello tradizionale, quindi agenzia, centro media, un lavoro molto professionale, diciamo. Le piccole e medie imprese possono anche loro però accedere alla, per la prima volta forse, utilizzare la leva importantissima della pubblicità, ok? Perché si può partire a fare comunicazione con i mezzi digitali con estremizzo qualche centinaia di euro, quindi si può provare, verificare il risultato e poi decidere eventualmente di investire normalmente. E per quello che è l'esperienza di Abitalia, questo è ciò che avviene sempre. Cioè, noi abbiamo potuto verificare che gli imprenditori che provano, hanno il coraggio o la curiosità di investire al digitale, tornano sempre subito dopo a stanziare nuovi investimenti, anche perché, come sapete, la pubblicità online è misurabile e quindi loro possono verificare quasi ogni euro che hanno investito, che risultati ha dato. Questo è un po' l'effetto lo slot machine, no? Una volta che si prova, poi si tende a tirare sempre la leva. Funziona spesso così. Abbiamo toccato due punti fondamentali che vanno ricordati quando si parla di pubblicità online, ovvero la misurabilità e l'abbassamento del livello di investimento per entrare nel sistema. Poi sulla pubblicità online, come di tanti altri mercati digitali, si possono dire tante cose, ma questi sono sicuramente due punti interessanti. Soprattutto nel search, cioè, così dicono gli esperti, cioè il mondo dei motori di ricerca, è possibile pianificare in maniera molto semplice una campagna pubblicitaria con un investimento molto basso, alcune centinaia, o forse meglio dire alcune migliaia di euro. Tra l'altro va detto che se il mercato della pubblicità online ancora cresce, uno di quei mercati che cresce, buona parte del merito è dovuta proprio al mondo delle ricerche online. Gran parte del traffico sulla rete viene generato dai motori di ricerca, Google in primis, ma non solo da Google, e quindi è chiaro che una buona parte degli investimenti pubblicitari viene pianificato su quei media. Poi ci sono tante altre proposte, tante altre offerte, anche all'interno del Sole 24 Ore c'è la possibilità di fare pubblicità nella parte online, quindi come vedete il mondo si sta trasformando molto velocemente, molto rapidamente. Parliamo però della radio. La pubblicità, i discorsi che vanno fatti per la pubblicità online valgono anche per la radio online, perché la radio si sta trasformando, forse non con la stessa rapidità con cui stanno cambiando le cose in altri mezzi di comunicazione, ma le cose spesso si modificano in silenzio, molto lentamente, poi molti si accorgono del cambiamento all'improvviso. Allora, tra poco vorrei parlare di pubblicità online con un esempio, con un'esperienza che mi pare molto interessante, che mette assieme le cose che abbiamo detto prima, cioè la misurabilità dell'investimento, l'abbassamento del livello di investimento e anche la radio, che sempre più spesso è online. Dimostrazione ne è che molti dei nostri programmi vengono riascoltati in un secondo momento, magari dopo essere stati scaricati dal nostro sito internet. Oggi nella nostra puntata parleremo anche di Firefox, uno dei programmi di navigazione sulla rete internet più noti, che sta crescendo con quote di mercato piuttosto interessanti. Ne parleremo perché compie 5 anni, il lunedì festeggerà i 5 anni, e tra l'altro lunedì è anche una data importante per il mondo dei programmi di navigazione, i browser, web browser, perché scade quella finestra di tempo che la Commissione europea ha dato ad alcuni concorrenti di Internet Explorer per inviare le proprie osservazioni nell'ambito dell'intervento antitrust che la Commissione europea ha fatto nei confronti di Microsoft. Sostanzialmente la Commissione europea, o meglio l'antitrust europeo, ha detto alla Microsoft: non puoi vendere Internet Explorer assieme a Windows, perché vista la quota di mercato che ha Windows in tutto il mondo, in Europa in modo particolare, perché l'intervento punta sul nostro continente, sull'Unione Europea, vista la quota di mercato così forte, quello è abuso di posizione dominante. Allora Microsoft ha suggerito, ha inviato alla Commissione una possibile soluzione, e entro lunedì i concorrenti Opera in modo particolare la norvegese Opera, Google, ma anche Firefox della Mozilla Foundation, dovranno inviare le proprie osservazioni. Di questo parleremo più tardi, parleremo anche di Firefox. Adesso invece stiamo parlando di pubblicità. Abbiamo fatto il punto sul mercato della pubblicità online, quella che gli esperti chiamano pubblicità interattiva. Abbiamo fatto il punto del mercato italiano, un mercato in ritardo rispetto ad altri più evoluti. Basta guardare la Gran Bretagna per vedere che cosa sta succedendo. Comunque le novità ci sono, c'è un certo fermento, dicevamo, ci sono numeri positivi. Bene, vorrei continuare a parlare di pubblicità online. Avremmo potuto scegliere tanti esempi dalla rete internet, ma visto che siamo alla radio e ci interroghiamo a volte sul futuro di questo mezzo di comunicazione, che inevitabilmente avrà una dimensione sempre più ampia online, su internet, beh, visto che siamo alla radio, dicevo, abbiamo scelto un esempio di un'azienda italiana che pianifica su una web radio americana. Dicevamo poco fa, e cerchiamo appunto di mettere insieme alcuni elementi che vengono spesso sottolineati, cioè investimenti, livello dell'investimento che si sta sempre più abbassando, misurabilità, avvicinamento al target, tante cose vengono dette sulla pubblicità online. Allora questo esempio sicuramente è calzante per capire come si possono mettere insieme tutte queste cose. Saluto Fabio Angius, che è responsabile commerciale di un'azienda che produce vini, ovvero Pala Vini di Sardegna. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi fate vini e uno potrebbe domandarsi perché in un programma che si occupa di tecnologia, che oggi sta parlando della radio, abbiamo invitato una persona che si occupa di vini. Beh, lascio a te dire il perché. Beh, noi abbiamo, penso, tra i primi, siamo stati i primi a fare una campagna pubblicitaria su smoothjazz.com, che è una radio, una web radio che ha sede in California. È una delle prime radio del web. A proposito di target di riferimento, mi piace proprio partire da qua, perché tu hai citato una radio che fa un particolare tipo di jazz, nemmeno jazz, un particolare tipo di jazz che si avvicina con quello che voi vendete. Esatto, è un po' la musica che ci piace ascoltare, che piace ultimamente ascoltare in sottofondo se si hanno delle cene, se si è al ristorante, se si è in enoteca, e noi abbiamo legato proprio la nostra musica a quello. Del resto il nostro slogan è Wine Life, quindi quella è vita alla fine. Senti, due parole su come è nata questa decisione, anche perché la radio è una radio, sì, che si sente in tutto il mondo, come del resto tutto quello che è sul web, ma è una radio prevalentemente, o forse all'inizio prevalentemente, americana. Sì, prevalentemente americana. Infatti l'idea è nata durante uno dei tanti viaggi negli Stati Uniti, dove ho scoperto comunque personalmente questa radio sintonizzata in molti wine bar, nelle hall di alcuni alberghi. Poi comunque, quando la campagna è cominciata, abbiamo scoperto con molto piacere che la radio ha molti ascolti anche in Italia e in altre parti del mondo. Voi siete forse l'unica azienda di vini che fa pubblicità su quella radio, forse in assoluto su una web radio. Parlando, commercialmente parlando, diciamo così, quali sono i vantaggi, oltre a quello del raggiungimento preciso di un target, come tu ci hai detto? Voi siete tra l'altro una piccola azienda, quindi immagino che ci sia anche un vantaggio in termini di costi. Quello sicuramente. Diciamo che con tre pagine pubblicitarie in un magazine di settore, parliamo di vini, in Italia, ti sei pagato una campagna per un anno su una web radio, in questo caso su smoothjazz.com, e hai la possibilità di raggiungere un target che diciamo non è solo l'appassionato, ma anche il cultore della buona musica, che si presume sia anche cultore della buona vita e quindi del buon bere, del buon cibo, insomma, di tutto questo. Quindi probabilmente avete speso anche molto meno, perché se uno poi calcola il famoso costo contatto, diciamo così, il costo cala ulteriormente. Senti, voi, questo è l'unico modo per voi di fare pubblicità? Diversa dal solito. Diciamo che il nostro modo di fare pubblicità è quello tradizionale sui mezzi, sui magazine, non solo italiani, ma lo facciamo anche in altre parti del mondo, nel Regno Unito, e l'abbiamo fatta anche negli Stati Uniti. Questa è la prima vera campagna pubblicitaria su un mezzo che non è quelli la carta stampata, ecco, diciamo. E tu dici non ci saremmo potuti permettere campagne pubblicitarie in altri mezzi, cioè mezzi tradizionali, diciamo così. No, assolutamente, a meno che non siano mezzi regionali, nel senso che, cioè, avessimo voluto fare una campagna per la Sardegna, allora avremmo contattato sicuramente le radio locali, le televisioni locali. Se la devi fare in ambito nazionale, il settore vino, cioè chi è mio collega che l'ascolta sa benissimo che il settore vino non è mai troppo grosso, ma è generalmente fatto di piccole imprese che non possono permettersi di affrontare anche un investimento sulla radio dove siamo in questo momento, Radio 24, che è comunque un target molto, molto interessante anche per un produttore vinicolo, ma che comunque ha Radio 24 ha i suoi costi per mantenere tutta la struttura. E tu dici, per una piccola azienda il web è stata una soluzione molto buona. Sì, il web è una soluzione molto buona. Diciamo che tendenzialmente quando sei piccolo e cerchi di innovare e di fare in modo che comunque di far quadrare gli investimenti e di farli ritornare nella maniera migliore possibile. In questo caso il web è stata un ottimo investimento per quanto ci riguarda. Siamo comunque un'azienda che è un po' molto attenta alle innovazioni, tant'è che dopo il successo del web stiamo pensando sempre per restare nel web di cambiare il nostro sito, visto che abbiamo avuto molti più contatti, e di renderlo molto più interattivo. Senti, un'altra cosa che è interessante per chi investe sul web e chi ha una strategia commerciale sul web, quanto è misurabile tutto quello che state facendo? Cioè voi fate una campagna su una radio web, visto che si dice spesso che sul web si riescono a misurare molto bene le cose, per quanto vi riguarda, come fate per misurare il successo di una campagna del genere, o l'insuccesso, ma mi sembra che sia il primo caso. No, beh, se dobbiamo fare i conti con i numeri e quindi con le statistiche, ci sono quelle, gli accessi al nostro sito che sono passati da poco meno di 1000 mensili a punte di 45.000 mensili. Poi ci sono ovviamente le fiere, dove le fiere e i wine tasting in giro per il mondo, dove ti dicono: ah, ho sentito la tua campagna su Smooth. Ci sono le email che l'azienda riceve di complimenti, che abbiamo ricevuto email anche dall'Australia dicendo: sto ascoltando la radio e sto sentendo la tua campagna pubblicitaria. Bene, Fabio, io ti ringrazio per essere stato con noi, complimenti per l'idea, potremmo dire. A presto, buon lavoro. Grazie anche a voi. Riprendiamo, questa è la nostra seconda parte, seguiteci, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online www.radio24.it, e come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana, anche in maniera automatica grazie a particolari software come ad esempio iTunes, dicevo, di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 @radio24.it. Adesso parliamo ancora dell'evoluzione, in qualche modo, della radio, con un servizio che mette assieme un po' di cose: il social network, la mobilità, gli smartphone, naturalmente internet e anche la musica. Saluto Daniele Calabrese, fondatore di Soundtracker. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi avete avuto, tu hai avuto questa idea che mette assieme la musica, la radio, il social network o i social network e la mobilità. Tutte queste cose insieme hanno formato Soundtracker, che è un servizio che partirà a breve negli Stati Uniti, poi parliamo anche dei vostri piani di sviluppo per i prossimi mesi. Che cos'è Soundtracker? Scritto all'americana, tra l'altro, senza le vocali, cosa che gli americani fanno spesso. Soundtracker è un nuovo servizio musicale che consente agli utenti in mobilità, quindi attraverso i iPhone e Android e presto su altre piattaforme, di condividere la propria esperienza musicale con gli amici e scoprire nuova musica on location. Rivisita il concetto della radio e della personal radio e si inserisce nel contesto del nuovo fenomeno in esplosione del social network in mobilità. Voi dite che questa è una sorta di micro, o come dicono gli americani, micro broadcasting, quindi così come esiste il micro blogging, cioè ad esempio Twitter, dove io pubblico online una frase, poche parole, insomma. Voi dite che questo è un servizio che abilita gli utenti della rete internet a farsi la propria radio personale e condividerla con gli altri. Ci fai l'esempio di come funzionerà, già come funziona oggi, ma visto che poi il servizio partirà a breve, di come funzionerà? Sostanzialmente siamo partiti da un progetto molto semplice. La musica è emozione, la musica è condivisione, e la musica viene ascoltata in un ambiente sociale, e la musica suscita, e con la musica si raccontano delle storie, quindi delle colonne sonore, dei soundtracks. E abbiamo creato un sistema molto semplice che consente ai nostri utenti di selezionare delle canzoni dal proprio archivio musicale sul telefono, oppure di individuarle sul nostro catalogo musicale e in qualsiasi momento metterle in condivisione. Scrivere un commento di testo, scrivere un commento audio, pubblicare una foto e, in funzione della posizione GPS, quindi dove mi trovo, metterle in condivisione sui social network, quindi utilizzare poi Facebook e Twitter per condividerla con i propri amici e consentire agli amici di sintonizzarsi in tempo reale sulla stazione radio pubblicata dai nostri utenti. Senti, questo è un servizio che, come dicevo, partirà tra poche settimane, attorno al 20 di novembre, negli Stati Uniti, perché la tua è una società americana fondata a Washington. Perché solo negli Stati Uniti? Quando parliamo di internet parliamo di un servizio che raggiunge tutto il mondo, ma certo, quando tocchiamo la musica ci sono sempre problemi di localizzazione. Allora, per quale motivo ancora in Europa non potremo ascoltarla? Allora, per noi è stato fondamentale mettere in piedi un sistema completamente legale. Certo. Era per me importante dare questo segnale sul fatto che è importante riconoscere da una parte agli utenti l'opportunità di ascoltare in qualsiasi momento, in qualsiasi posto la musica, dall'altra parte riconoscere i diritti d'autore. E quindi si affronta in modo diretto al cuore il problema, o comunque come è strutturato il settore della musica, che è organizzato a livello statale e locale. Partiamo dagli Stati Uniti perché ritengo che gli Stati Uniti siano il mercato di riferimento per due motivi. Il primo, l'esplosione degli smartphone, degli iPhone, il fenomeno iPhone, il fenomeno Android, Google Phone, il fenomeno BlackBerry, una rapidissima trasformazione nell'utilizzo del cellulare che ricorda, diciamo, l'elemento telefonico, ma in realtà porta sul mobile una serie di servizi web a valore aggiunto, ma servizi web strutturati multimediali, di cui la musica e il video sono diciamo parte fondante. E c'è una rapidissima trasformazione di questo fenomeno, per cui ci sono oltre 70-80 milioni di persone che già hanno l'iPhone su 300 milioni di utenti. Il secondo elemento è la musica. Negli Stati Uniti ci sono stati una serie di fenomeni e una serie di successi e insuccessi nel campo della musica. Ricordiamo Napster, quindi il primo social network sostanzialmente di distribuzione della musica tra utenti che scaricano e scambiano la musica illegale, e il fenomeno di successo come iTunes, quindi l'opportunità, diciamo il primo strutturato servizio di musica a pagamento con download operato da Apple. E poi tutta una serie di fenomeni interessanti come quello di Last.fm, quindi il primo esperimento di social music discovery, che consente agli utenti di mettere in condivisione sul web la propria musica e scoprire musica attraverso l'ascolto sociale. E quindi gli Stati Uniti diventano il mercato di riferimento perché mobile incontra la musica e incontra il terzo elemento, che è la mobilità, quindi la location. Quindi ci sono le condizioni per fare successo. Senti, la vostra è una startup. Le cose funzionano effettivamente, come si dice spesso, più facilmente negli Stati Uniti, quindi è comunque ancora oggi un terreno più favorevole per fare una startup, oppure no? Direi assolutamente di sì. Io ho avuto l'opportunità in un anno di costruire un team spettacolare di professionisti che vengono dal campo del mobile, della musica, delle case discografiche, nel campo della finanza e del marketing, a Washington, Los Angeles, San Francisco e New York, e persone molto valide, disposte a collaborare in un ambiente, diciamo, di lavoro assolutamente delocalizzato e destrutturato. Anche denaro avete trovato facilmente? Abbiamo raccolto in un momento molto difficile dei capitali importanti per noi, che ci hanno consentito di sviluppare l'idea, il business plan, fare accordi con le case discografiche e sviluppare il prodotto e metterlo sul mercato. Diciamo anche che il tuo caso non è il caso di una persona che è andata negli Stati Uniti per fare questo business, perché tu già vivevi da parecchi anni negli Stati Uniti. Senti, questo servizio sarà un servizio gratuito o a pagamento? Perché poi la domanda è anche come ci fate i soldi con Soundtracker? Direi che abbiamo due servizi, uno gratis e uno in abbonamento. E abbiamo studiato molto attentamente il problema delle licenze, visto che siamo un servizio legale. Attualmente non ci sono business model che possono sostenere un accesso on demand, quindi consentire a un utente di poter selezionare quella specifica canzone e ascoltarla in tempo reale, supportati esclusivamente alla pubblicità. Per cui il nostro servizio gratis, la componente 1, consentirà agli utenti di selezionare una canzone che genererà una stazione radio che potrà essere condivisa e da altri utenti, e consentirà ad altri utenti di sintonizzarsi sulla stazione radio. Sì. Quindi gestiamo sostanzialmente la musica come una web radio. Ok. Il servizio in abbonamento invece ci consentirà di dare più flessibilità, più autonomia agli utenti, che potranno selezionare un mix di 8 canzoni da mettere in condivisione con altri utenti e con altri amici. Ok, questo a pagamento. Questo a pagamento. A quanto al mese? $10. Tra poco parliamo anche di Firefox, che compie 5 anni lunedì. Adesso invece continuiamo a parlare del futuro della radio, una cosa che mi incuriosisce molto. Stiamo parlando di Soundtracker con Daniele Calabrese, che ha fondato questa azienda negli Stati Uniti. Il servizio sta per partire tra una settimana, appunto, solo in America, poi arriverà il prossimo anno anche in Europa e anche in Italia. Daniele, una cosa che mi incuriosisce molto riguarda il futuro della radio e quello che tu pensi. Quelli che lavorano nei quotidiani si interrogano sul futuro di questi media, che si stanno trasformando molto con l'arrivo di internet. E dicevo poco fa che anche la radio in qualche modo inevitabilmente si trasformerà, ma forse molto meno o molto più lentamente rispetto agli altri mezzi di comunicazione. Tu che idea ti sei fatto, partendo anche dalla vostra esperienza? Io credo che al fondo si tratta di raccontare delle storie. Ecco perché abbiamo chiamato il nostro servizio Soundtrackers. Storie attraverso la musica e attraverso l'audio, attraverso la voce, che complementa un'esperienza. Ora, questa voce può essere la voce di un singolo, la può essere la voce di un gruppo, può essere una voce professionale, può essere una voce amatoriale. Sì. Noi abbiamo messo in piedi un sistema che consente a tante voci oggi che si esprimono, si possono esprimere in modo diverso, di avere gli strumenti per poterlo fare in condivisione. Quindi sostanzialmente delle voci inascoltate, pensavamo, faccio un esempio probabilmente significativo di un utente Soundtracker che si può trovare in un angolo di una strada di fronte a un incidente o di fronte a un fenomeno particolare emozionante e racconta quella storia, magari anche con una presa audio, come potrebbe fare un giornalista che si trova di fronte a... Quindi uno può mettere in condivisione anche file audio creati da lui. Perfetto. Stesso user generated. Okay. Quindi entriamo in questa dimensione di un fenomeno di storie raccontate in tempo reale da diverse differenti location. Ora, questo fenomeno può, a mio giudizio, convivere con una storia raccontata invece in modo professionale da chi attraverso un processo editoriale di selezione informativo. Per cui noi semplicemente estendiamo le capacità di raccontare storie. Però tu dici che stai vedendo, e forse negli Stati Uniti questa cosa si sta vedendo meglio, che la radio passerà sempre di più attraverso il web, sempre più in mobilità, ma del resto la radio è già oggi molto mobile, visto che si ascolta nell'automobile molto spesso, o comunque anche quando siamo in casa spesso la radio è una cosa che ci portiamo, che spostiamo da una stanza all'altra. Quindi forse già nella radio, anzi senza il forse, la radio è già un sistema che si sposa con la mobilità. Però oggi ancora la radio per gran parte non la si ascolta sul web. Quindi tu dicevi che sicuramente in futuro ci sarà molto più web, e hai anche un'idea su come potranno essere forniti ed erogati questi servizi? Io credo che contrariamente a quanto intuitivamente si possa pensare, il fenomeno mobile, quindi degli smartphone che diventeranno sempre più smart, e di automobili che diventeranno sempre più smart e quindi avranno delle console collegate direttamente ad internet, per cui compreremo l'accesso, diciamo, a una serie di servizi non dall'operatore mobile ma direttamente dalla casa automobilistica dalla quale compriamo le macchine. Quindi tu dici: io compro l'automobile, nell'automobile c'è già internet. C'è internet nell'automobile, però invece adesso abbiamo il GPS, domani ci sarà una selezione di radio o una selezione di amici. Quindi io vedo sound tracker in automobile, per cui accendo l'automobile, vado sul mio dashboard, come adesso vedo il GPS, vedrò i miei amici cosa ascoltano, mi sintonizzo su Giovanni, Francesco piuttosto che Lisa, li vedo nella mappa GPS dove sono, magari la mattina piuttosto che alle 3 di notte quando esco dalla discoteca. Allo stesso modo potrò vedere la trasmissione di Radio 24. Quindi credo e sono convinto che il cittadino in mobilità avrà accesso al microblogging radio dei propri amici, si sintonizzerà allo stesso tempo come si potrà sintonizzare sul grande DJ, certo, per la musica, oppure ascoltare il programma di qualità di NPR, di Radio 24, certo, piuttosto che del New York Times. Quindi uno dice: ascolto il giornale radio di Radio 24 e poi magari ascolto Giovanni e sento che musica sta facendo Giovanni. Per quanto possa sembrare assurdo, credo che questo è il futuro dell'ascolto in mobilità. Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo per Soundtracker, insomma, per questa interessante avventura, in bocca al lupo, a presto. Grazie. Chiudiamo questa puntata ricordandovi che lunedì Firefox, uno dei programmi di navigazione più apprezzati su internet, festeggia i 5 anni dalla nascita. Sul mercato esistono ormai molti browser, ma la particolarità di Firefox è che nasce da una fondazione, la Mozilla Foundation negli Stati Uniti, e nasce all'interno del più ampio movimento legato al software libero, all'open source in tutto il mondo, come ci ha spiegato Giacomo Magnini, che è vicepresidente di Mozilla Italia. Possiamo dire che quasi il 50% di Firefox, in un certo senso, viene da più di 1000 volontari che contribuiscono il loro lavoro allo sviluppo del progetto. Ci sono inoltre migliaia di persone che scaricano il programma e lo provano, fanno dei test e sottopongono le loro impressioni d'uso e i problemi che riscontrano alla fondazione, in modo da poter sviluppare meglio il prodotto. Oggi i programmi di navigazione stanno diventando strumenti molto importanti, soprattutto per le aziende che operano sul web, essendo l'interfaccia che noi usiamo per accedere ai servizi erogati in rete, il browser è lo strumento che serve o per erogare meglio questi servizi oppure per ottenere informazioni su come noi navighiamo, insomma, quindi è un punto strategico. A conferma di ciò c'è l'arrivo di Google, che ha presentato un anno fa il proprio web browser chiamato Chrome. Quindi contiamo sul mercato Internet Explorer, che domina ancora il settore, poi Opera, Safari della Apple, Chrome e Firefox, che attualmente è il vero competitor, potremmo dire, di Microsoft. Magnini, quanto è cresciuta la diffusione di Firefox negli ultimi anni? Dunque, a livello globale è circa il 25% del mercato. A livello europeo, penso caso unico nel panorama del software, è quasi al 35%, cioè gli utilizzatori di Firefox in Europa sono più di quanti non siano negli Stati Uniti, che sono il paese notoriamente più avanti tecnologicamente. I programmi di navigazione sono diventati così importanti e la competizione è così importante in questo settore, tanto che all'inizio dell'anno è intervenuta anche l'antitrust europea, che ha obbligato la Microsoft a non mettere assieme Internet Explorer con Windows. Lunedì, lo dicevo poco fa, scade questa finestra di tempo che la Commissione europea ha concesso ai competitor della Microsoft per proporre alternative. Vedremo poi la prossima settimana che cosa succederà. È tutto per questa puntata di 2024. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, vi aspettiamo anche sul nostro sito internet, non dimenticate la possibilità di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast. Ci risentiamo tra 7 giorni, per il momento un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.